Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Diventiamo più forti del diabete. Una dieta equilibrata e una regolare attività sportiva aiutano a prevenire i rischi del diabete. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi una puntata dedicata al diabete. Noi come sempre ci portiamo avanti perché si celebra la giornata il 14 e il 15 novembre. Ci portiamo avanti come sempre, dicevo, perché? Perché vogliamo darvi modo di ritagliarvi uno spazio nella vostra agenda per seguire e partecipare ai tanti appuntamenti che sono previsti per questo weekend. Trovate tutte le indicazioni sul sito giornatadeldiabete.it. Ma intanto adesso voglio presentarvi gli ospiti della giornata. In studio con noi il dottor Stefano Genovese, che è responsabile del reparto di diabetologia all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. In linea abbiamo la dottoressa Iannarelli, che è direttore dell'unità operativa di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Non poteva certo mancare la professoressa Renata Lorini, direttore della clinica pediatrica all'Università di Genova presso l'Istituto Giannina Gaslini. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Noi abbiamo un appuntamento fisso. Sì. Ci troviamo sempre, ogni anno. Pronto? Sì, mi sente bene? Sì, sì, la sento. Perfetto. Dottoressa Iannarelli, inizio da lei perché quest'anno la giornata mondiale del diabete pensa all'Aquila. Infatti il ricavato degli SMS solidali, vi rimando sempre al sito della giornata del diabete, sarà destinato a riattrezzare la diabetologia aquilana distrutta dal terremoto. Perché investire nella ricerca vuol dire anche mettere in condizione la ricerca di lavorare e funzionare. Che dice, dottoressa? Sicuramente sì, e innanzitutto è doveroso un sentito ringraziamento a Diabete Italia, nelle persone in particolare del past president dottor Adolfo Arcangeli e dell'attuale presidente professor Cavallo Perin, sì, per la decisione di devolvere il ricavato di questo dell'SMS solidale della giornata mondiale del diabete di quest'anno a riattrezzare la diabetologia dell'Aquila, i cui locali sono stati pesantemente lesionati dal terribile sisma dello scorso 6 aprile. Fino a qualche secondo fa si sentivano rumori di martelli pneumatici e altri attrezzi edilizi, perché qui l'ospedale è un cantiere praticamente. Attualmente come diabetologia siamo in 3 container dove operiamo a pieno ritmo. Purtroppo gli spazi attuali sono pochi perché ogni container ha una dimensione di 6 metri per 2,4, però siamo in attesa di un prossimo proprio a giorni trasloco in una bellissima casa di legno generosamente offerta da una nota ditta produttrice di case di legno, e quindi con l'aumento degli spazi, e questo succederà proprio a giorni, potremo cominciare a riattrezzare la struttura, e riattrezzare la struttura significa sicuramente metterci in condizioni di lavorare meglio, certo, sia per quanto riguarda la quotidiana attività clinica e quindi per il paziente individuale, sia per quanto riguarda la ricerca, in particolare la ricerca clinica. Grazie allora del quadro di questa situazione che ci sottolinea ancora una volta che l'Aquila sta andando avanti, siete ripartiti e i risultati si vedono. Ma inizierei da lei, dottor Genovese, che è il nostro cavaliere di oggi, è circondato da donne, e a lei chiedo di provare a fare una carta d'identità del diabete di tipo 2, nome, cognome, residenza, età di insorgenza, proviamo a descriverlo, a fotografarlo. Beh, innanzitutto da buon cavaliere non posso che salutare le due mie colleghe amiche, ciao Rossella e ciao Renata. Ciao, ciao. Carta d'identità del nostro paziente diabetico di tipo 2, indipendentemente maschio o femmina, in genere la comparsa di malattia è un po' più precoce nel maschio, intorno ai 40-45 anni, nelle donne un po' più tardiva, 50 anni, in genere pazienti un pochino in sovrappeso. In realtà però il diabete di tipo 2 è una malattia estremamente eterogenea. Senza entrare in dettagli molto tecnici, la scuola di Verona, che è una famosa scuola diabetologica, ha identificato almeno 6 tipi diversi di diabete di tipo 2, possiamo dire che, ecco, in genere un picchino di sovrappeso, una predisposizione familiare e un'età, una mezza età, sono, diciamo, le caratteristiche del paziente con diabete di tipo 2. Ci sono due parole su cui noi ci concentreremo nella trasmissione di oggi. Mi sono dimenticata di darvi il nostro numero verde 800 24 00 24. Dicevo che sarà prevenire ed educare. Prevenire il diabete di tipo 2 è possibile, educare i soggetti diabetici è assolutamente un passo molto importante, perché educare significa aiutare il diabetico a convivere con la malattia, ma meglio che convivere, professoressa Lorini, mi piace dire vivere meglio. Sicuramente vivere meglio, ma io intervengo come pediatra a dire che purtroppo il diabete mellito tipo 2 viene diagnosticato anche in età pediatrica. Fino agli anni 70 non esisteva il diabete tipo 2 in età pediatrica, ma purtroppo hanno iniziato negli Stati Uniti soprattutto alcuni bambini di alcune etnie, soprattutto di tipo indiano-americano, a sviluppare il diabete tipo 2 associato a obesità. C'è sempre una condizione di obesità, ed anche in Europa e purtroppo anche in Italia noi abbiamo ormai quasi più di 200 in un registro pediatrico di giovani con diabete tipo 2 e che viene diagnosticato. E direi che, come ricordava benissimo il professor Genovese, spesso c'è familiarità, non solo i bambini ma anche i genitori, uno dei genitori ha diabete tipo 2, e quello che stiamo osservando è che tra le cause, oltre all'obesità, non attività fisica, nella storia di questi bambini, sono bambini che magari sono nati piccoli per l'età gestazionale, hanno avuto una malnutrizione uterina, nel senso che ci sono stati dei problemi durante la gravidanza. Quindi questa è un'attenzione particolare che noi stiamo dando da pediatri e anche con i neonatologi sin dai primi anni di vita, perché guardi, io faccio il paragone a quello che avevano osservato gli olandesi e l'ipotesi di Bakker, che dopo il periodo della malnutrizione nascevano questi bambini che poi, quando è finita la guerra, c'è stata la possibilità di avere alimenti, questi sono ingrassati di più. Quindi c'è anche questo fenomeno, diciamo quasi ambientale, che può in un certo senso condizionare. Quindi attenzione ai bambini che nascono piccolini, che piccolini, non vengano sovrappeso, che non diventino obesi, perché rischiano lo sviluppo del diabete tipo 2. Professoressa Lorini, lei ci sta dicendo una cosa molto interessante, perché parlando di salute, noi ogni giorno abbiamo qua in linea con noi medici che ci raccomandano sempre: non ingrassate, ecco, perché sappiamo che i chili di troppo, i chili in più sono pericolosi per la nostra salute. Ma quando lei dice un bambino nato piccolo, un bambino piccolino, quanto, a che peso si riferisce, professoressa Lorini? No, non è tanto il peso quanto il periodo della nascita, perché se durante la gravidanza c'è una difficoltà per cui nasce a 6 mesi piuttosto che alla fine della gravidanza, il peso è in funzione anche della durata di gravidanza. Ma noi stiamo veramente osservando, e non per dire, ma io sono a Siena a un congresso proprio di neonatologia e si sta parlando di queste problematiche, quindi se c'è un convegno su queste problematiche vuol dire che il problema c'è. Quindi il messaggio che voglio dare è che anche le mamme, quando è vero, nascono questi bambini più piccolini, stanno in incubatrice, poi vengono dimessi, di non desiderare che questi bambini debbano recuperare eccessivamente, perché rischiano l'obesità o un diabete di tipo 2. Questi bambini sono soggetti a rischio pur non avendo magari la familiarità del diabete tipo 2, ecco, perché già in gravidanza ci sono dei fenomeni che possono modificare quello che è la capacità di sensibilità all'insulina, ma favoriscono una insulinoresistenza, come quindi quelli che geneticamente sviluppano il diabete tipo 2. Sono molto contenta che la professoressa Lorini ci abbia regalato il suo tempo, nonostante sia relatrice di questo convegno, proprio per dare modo alle mamme di Radio 24 di chiamarla. La professoressa Lorini, però, come vi dicevo, è uscita dalla sala e sarà con noi fino alle 11:30, per cui precedenza alle mamme mamme che hanno dei dubbi, vogliono fare delle domande, 824 0024. Intanto, dato che il dottor Genovese ci ha anticipato nella carta d'identità quali sono i fattori di rischio e le persone potenzialmente a rischio, andiamo a sentire la nostra scheda, che potete anche rivedervi su diabeteitalia.it. andiamo. Se hai più di 45 anni, la pressione è alta, grassi nel sangue elevati, hai avuto il diabete in gravidanza o hai partorito un bambino di peso superiore ai 4 kg. Se sei in una famiglia di diabetici, in sovrappeso o obeso, sedentario, poco attento alla tua alimentazione. 824 0024, se vi riconoscete in uno o più di questi variabili, noi siamo come sempre a vostra disposizione, ma vorrei coinvolgere anche la dottoressa Iannarelli. Dottoressa Iannarelli, quindi si può prevenire il diabete di tipo 2 negli adulti? Prevenire il diabete tipo 2 negli adulti è possibile ed è stato dimostrato scientificamente con una serie di studi intorno al 2000, 1999, 2000, 2001, studi scandinavi, americani, cinesi. La prevenzione avviene attraverso una modifica degli stili di vita, che essenzialmente significa alimentazione equilibrata, senza eccessi di zuccheri semplici, di alimenti ad alto indice glicemico, senza eccessi di grassi, e una regolare attività fisica dell'ordine di 30 minuti di passeggiata al giorno, almeno 5 giorni a settimana, per un totale di 150 minuti a settimana, ovviamente passeggiata non troppo lenta. Sì, di buon passo. In modo da riguadagnare, se si è perso, o da mantenere un peso normale o quasi. Per ottenere ciò, cioè l'aderenza a uno stile di vita corretto, sia dal punto di vista alimentare, sia dal punto di vista dell'esercizio fisico, sembra facile, ma in realtà spesso non lo è necessario, tra virgolette, educare la popolazione, iniziando, come direbbe la professoressa Lorini, fin dall'infanzia, ma non escludendo nessuna fascia di età. Della serie non è mai troppo tardi. Renato ci chiama da Bergamo, 824 0024. Renato, buongiorno. Buongiorno. Niente, io sono, diciamo, un diabetico, ma che non prendo nessuna pastiglia e neppure mandato la macchinetta per provare la glicemia, però la mia glicemia è sempre 140-150. Io pratico l'escursionismo in montagna per circa 12 ore o circa 13 la settimana. Quindi attività fisica? Essere, però sono sempre in sovrappeso ugualmente, anche mangiando poco sono sovrappeso. Sovrappeso 1,70 per 81 kg. Senta Renato, l'affido al dottor Genovese. Dottore? Beh, intanto continui ad andare in montagna, che a parte il piacere di salire per le vette è sicuramente un modo ottimo di fare attività fisica. Suggerirei di non usare come parametro di controllo del diabete solo la glicemia, ma di utilizzare l'emoglobina glicata, che è un parametro che ci dà un valore medio della glicemia degli ultimi 3 mesi, che è il parametro di riferimento per noi per capire se il diabete è ben controllato o meno. Lei, ricordiamoci anche una cosa, lei sì ha un modesto sovrappeso, ricordiamoci che il nostro peso dipende sì da quello che noi mangiamo, ma dipende anche dalla nostra genetica. Se uno ha un papà robusto e una mamma robusta, è verosimile, è molto difficile che sia un longilineo, per cui teniamo in considerazione che appunto la genetica gioca un ruolo anche sul nostro peso. E mi raccomando, continuare a fare attività fisica, perché è il modo migliore per controllare la malattia. Andiamo da Augusta, che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, vorrei chiedere gentilmente al professore, visto che mio padre era diabetico, che predisposizione ho io ad avere il diabete, però mio padre questo diabete l'ha avuto in conseguenza di una pancreatite. Allora, facciamo lavorare la dottoressa Iannarelli. Dottoressa Iannarelli. Allora, se il papà ha avuto questo diabete a seguito di una pancreatite, non è un diabete mellito diciamo classico, ma è un diabete secondario. Sì. Per cui l'ereditarietà rispetto al diabete comune viene a cadere. Se comunque la signora rientra in quelle categorie che si sono dette prima, età superiore a 45 anni, eccesso di peso, grassi nel sangue elevati anche se poco, pressione elevata anche se poco, aumento della circonferenza vitrea, un parametro molto importante per quella sindrome che definiamo sindrome metabolica, e allora è il caso di fare degli accertamenti che poi alla fin fine non è che sono fantascientifici, perché basta iniziare con una semplice glicemia. Potrebbe approfittare la signora di per visitare una delle oltre 500 piazze italiane, dove sabato e domenica verrà fatto appunto uno screening della glicemia, oltre che il rilevamento dei principali indici antropometrici, peso, altezza, circonferenza vita, calcolo del body mass index, e inoltre verrà somministrato un questionario diagnostico attraverso il quale sarà possibile prevedere il rischio di sviluppare il diabete entro 10 anni. Quindi avete a disposizione davvero tanti strumenti per fare diagnosi, ma dottoressa Lorini, lei, professoressa Lorini, lei l'ha anticipato, molto spesso i bambini arrivano tardi alla diagnosi. Devo dire che è un male comune anche tra gli adulti, ci sono diabetici che hanno la malattia ma non lo sanno. Ecco, quindi c'è questo sommerso che rischia. Ecco, mentre il diabete tipo 1, quello che è più frequente, dà dei sintomi importanti, il bambino beve tanto, urina tanto, se è piccolo bagna il letto, per cui i genitori si preoccupano, il diabete di tipo 2 non dà questi sintomi, non dà dolori, e quindi noi a volte facciamo diagnosi di diabete di tipo 2 ai bambini che vengono perché per esami banali magari devono fare la tonsillectomia qualcosa, trovano che hanno 105-110 glicemia, allora i genitori si mettono in allarme, oppure perché da visite per attività sportiva, forse perché i genitori si rendono conto che il loro figlio è un po' più cicciottello rispetto agli altri, dico fai un po' di sport, il medico sportivo trova che ha la pressione un po' più elevata. Bene, molti dei bambini a cui noi avevamo fatto diagnosi di diabete tipo 2 erano stati mandati per sospetta ipertensione arteriosa. In realtà fa parte anche del quadro di diabete tipo 2, facendo poi glicemia o GTT, questi erano ragazzi con diabete tipo 2, in più anche ipertensione. E questo è un aspetto gravissimo, perché il diabete tipo 2, come sappiamo, anche nell'adulto può causare patologia cardiovascolare, ma se noi cominciamo a 10 anni, questi soggetti sono ancora più a rischio di manifestare questa patologia più giovani. Renata ci chiama dalla provincia di Milano. Renata, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono nonna di 2 gemelle di 15 mesi, sì. Età gestionale, una 29 settimane e l'altra 33. Adesso io sentivo dalla dottoressa Lorini, però non ho capito bene, rischio diabete, in che senso? Renata, come dobbiamo comportarci per quanto riguarda l'alimentazione allora a questo punto? Renata, bella domanda, la professoressa Lorini le risponde prima di tornare al convegno. Professoressa Lorini. Allora, queste 2 gemelline sono da seguire attentamente, fare in modo che abbiano un'alimentazione corretta e non sovralimentate. Quello che bisogna sapere, se non è tanto a quale settimana sono nate, ma se il loro peso rispetto alla durata della gravidanza è inferiore rispetto alle aspettative, il che vuol dire che ha avuto una malnutrizione intrauterina, cosa che a volte può succedere nei gemelli, e però bisogna fare attenzione perché durante la gravidanza potrebbe esserci stata proprio una modificazione a livello metabolico, per cui questi bambini poi possono sviluppare un diabete tipo 2 quando crescono, e quindi bisogna maggiormente seguirli e evitare che diventino obesi. E siamo tornati insieme, oggi una puntata dedicata al diabete e il punto sull'influenza che dedichiamo ogni giorno lo facciamo proprio per i diabetici. In linea con noi abbiamo il professor Giorgio Palù, che è presidente della Società Italiana di Virologia e componente dell'unità di crisi del Ministero. Professore, grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. Professore, i soggetti diabetici rientrano nelle categorie a rischio e quindi devono vaccinarsi per l'influenza A, è corretto? È corretto, è suggerito che si vaccinino per l'influenza stagionale, queste le vaccinazioni in Italia non sono obbligatorie ma altamente raccomandate, e rientrano comunque tra quelle categorie per cui è previsto anche l'impiego e quindi la disponibilità del vaccino pandemico. Quindi nei confronti dell'influenza A, del virus H1N1. La nuova variante. La nuova variante. Professore, perché sono categorie a rischio? Soggetti che hanno disturbi dell'apparato respiratorio, cardiovascolare oppure disturbi dell'immunità cellulare o umorale, perché sono più soggetti a contrarre infezioni e quindi ad ammalarsi, e in questi pazienti le infezioni, un'infezione virale una volta contratta ha una maggiore morbilità, cioè conseguenze maggiori, quindi sono più esposti a rischi quali patologie, morbilità o anche mortalità. Parliamo dei soggetti anche di quelli che riescono a compensare bene la malattia, vero? Sì, parliamo anche di soggetti che compensano, perché ci può sempre essere uno squilibrio e poi trattandosi di malattia cronica ha comunque degli effetti invalidanti su vari sistemi dell'organismo. Che cosa dicono le linee del Ministero per quanto riguarda l'età del diabetico? Dai 6 mesi ai? Le categorie a rischio incluse per il virus pandemico sono dai 6 mesi ai 65 anni. Si è pensato di limitare i 65 anni perché si è visto che il 70-80% delle infezioni avvengono a carico dei soggetti giovani. Professor Palù, quindi per quest'anno per le persone diabetiche 2 vaccinazioni al posto di una, una vaccinazione per l'influenza stagionale e una per il virus pandemico. A che distanza è necessario? Potrebbero essere fatte anche in concomitanti, purché su 2 superfici diverse, braccio destro e sinistro. Per fortuna ne abbiamo 2, professore. Oppure, quindi... oppure a distanza di 10 giorni una dall'altra. Non occorre aspettare più tempo, vero? Si era parlato anche di 3 settimane, 1 mese. No, si possono fare anche insieme. Come società di virologia avevamo suggerito di rendere disponibile infatti anticipatamente il vaccino stagionale, che di solito negli stock si ha verso aprile-maggio, anche per anticipare in questo modo la vaccinazione e favorirla. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, a presto, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci. 824 0024, parliamo di diabete per prevenire ed educare. Abbiamo sottolineato che esiste un problema serio che è il sommerso. Dottor Genovese, cioè ci sono dei diabetici che non sanno di essere. Esattamente, a fronte di un paziente diabetico si ritiene che ce ne sia un altro soggetto, paziente ahimè, col diabete, ma che non sa di essere diabetico. E poi c'è il grande numero di soggetti che sono a rischio di diabete, noi li chiamiamo pazienti con alterata glicemia a digiuno, quindi con una glicemia superiore a 110 ma inferiore a 126, che è invece la soglia per diagnosticare il diabete, oppure i soggetti che hanno quella che noi chiamiamo la intolleranza al glucosio, che è una condizione che si può verificare, che si può osservare solo facendo un esame particolare, che è il test da carico orale di glucosio. Si dice, diamo delle indicazioni per queste, me le lascia chiamare zone grigie? Assolutamente, sono delle zone grigie. Le persone, i medici che più facilmente possono identificare questi pazienti sono i medici di medicina generale, per cui un medico di medicina generale che tra i suoi assistiti ha dei soggetti che hanno quelle caratteristiche di cui abbiamo parlato prima, un'età maggiore di 45 anni, un po' più alta, eccetera, deve far loro una glicemia. Se la glicemia è superiore al valore della norma, cioè? Ma superiore a 110, ma inferiore a 126, ribadisco che invece è il valore per diagnosticare, fare diagnosi di diabete, deve iniziare a a rizzare le orecchie e dire: guardi, lei è un soggetto a rischio per diabete, può, anzi noi, le nostre società scientifiche suggeriscono, raccomandano di eseguire un test da carico orale di glucosio, quindi far bere quelle famosi 75 grammi di glucosio, andare a controllare la glicemia 2 ore dopo il carico. Lì avrò un risultato che mi caratterizzerà ulteriormente il soggetto, per cui se avrò un valore sopra i 200 avrò un soggetto diabetico. Ci sono pazienti diabetici che possono avere la glicemia non ancora sopra i 126, ma una glicemia dopo carico maggiore di 200 e quindi sono già diabetico. Esatto. La prova del 9. Esattamente. Eppure soggetti che hanno una glicemia dopo 2 ore dal carico tra 140 e 199, che sono soggetti, come che noi definiamo, con intolleranza al glucosio, soggetti a rischio di sviluppare diabete. Ma in questi soggetti bisogna iniziare subito ad attuare delle strategie preventive, che sono quelle che ha descritto prima la dottoressa Iannarelli, cioè modificare lo stile alimentare cercando di ottenere un calo del peso intorno al 6-7%, quindi per un uomo di 70 kg stiamo parlando di 5 kg, accompagnato da un'attività fisica regolare e costante per 150 minuti a settimana. Abbiamo Marcello da Milano e Roberto da Bari, e poi parliamo di alimentazione insieme alla dottoressa Iannarelli. Se dobbiamo fare, no, variare in che modo la nostra dieta, a quali alimenti dare la precedenza, se ci sono degli alimenti invece, degli alimenti da proprio evitare o da ridurre. Abbiamo Marcello da Milano. Sergio, stia tranquillo, continua a mandarmi messaggi, Sergio, se vuole può anche intervenire, Sergio, all'800 24 00 24, ma parleremo di alimentazione, glielo prometto. Marcello da Milano, buongiorno. Buongiorno, senta un'informazione, io praticamente sono diabetico da 11 anni, insulino dipendente. Sì. Ecco, io ho una nipotina, praticamente io questo diabete l'ho ereditato da parte di papà e da parte di mamma, perché entrambi gli zii erano insulino dipendenti, anche gli zii. Mm. Io ho una nipotina, la figlia di mia sorella, che ha adesso 3 anni, ma l'anno scorso naturalmente ne aveva 2. Mm. Io una sera ero a cena da loro e ho fatto un giro di prova, come si fa ogni tanto. Sì. E niente, mia nipotina aveva la glicemia 143. Quindi un incontro con misurazione di glicemia, succede anche questo. Ogni tanto io lo faccio con i miei parenti. Certo. Anche qualche amico, se lo desidera, io lo faccio volentieri. E quindi ci chiama per la sua nipotina. Ecco, il pediatra di mia nipote ha detto così, che non c'è da allarmarsi, anche perché io in un secondo momento, a distanza di tempo, l'ho misurata ed era normale. Quindi non capisco come un mai, po' ballerina. Marcello, diamo la parola al dottor Genovese, che sicuramente è riuscito a catturare alcuni dettagli dalla storia di Marcello che possono fare la differenza. Dottore. Con la premessa che non sono un pediatra e purtroppo la dottoressa Lorini se ne ha dovuta tornare al suo convegno. Intanto una precisazione chiedo al nostro ascoltatore. Lei parla di insulino dipendenza. Allora, questo termine non si usa più dal 1999, quando è stata promossa la nuova classificazione del diabete. Si parla di diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. Diabete di tipo 1 è quello che necessita di insulina fin dalla diagnosi, è il diabete che di solito compare in età giovanile, ma può comparire anche in età adulta. Quindi la prima domanda che devo farle è: lei ha un diabete che è stato curato fin dall'esordio con insulina? Sì, immediatamente. Ok, allora ci troviamo di fronte a un caso di diabete di tipo 1. Nel 10% dei casi di diabete di tipo 1 siamo di fronte a dei casi familiari in cui ci sono più soggetti con il diabete tipo 1 all'interno della stessa famiglia. Il 90% dei casi di diabete tipo 1 invece è un caso sporadico. Allora, nella bambina piccola, intanto bisognava vedere quando è stata fatta questa glicemia. Se è stata fatta mezz'ora, un'ora dopo un pasto, una oscillazione della glicemia viene anche nel soggetto normale. Ovviamente dopo pasto la glicemia sale, e il fatto che sia ritornata a valori normali in un'altra condizione ci tranquillizza. È ovvio che però una ragazzina che ha avuto una bambina in questo caso che ha avuto questo tipo di problema va tenuta sotto osservazione. Siamo tornati insieme con Roberto da Bari. Roberto, buongiorno. Buongiorno, qui il sole è splendido. Anche noi abbiamo il sole, Roberto, magnifico. Bene, sì. Io credo che partiamo dal presupposto che la prevenzione è la cura migliore. Sì. Dico, nelle scuole non è opportuno inserire anche delle materie che insegnano magari i ragazzi a distinguere almeno proteine, carboidrati, zuccheri e altro. Così almeno uno sa anche scegliere, può scegliere gli alimenti, insomma, da mangiare per la propria magari patologia, tipo il diabete di tipo 2. Ecco, allora con lei, le famiglie però, Roberto, ci sono anche le famiglie, la scuola e la famiglia dovrebbero fare un'azione integrata e anche chiedere... Bisogna vedere quanto tempo passano a scuola. Ecco. Comunque entrambi sicuramente. Sì, dobbiamo darci una mano e soprattutto dovremmo inserire più attività fisica nelle nostre scuole. Roberto, quindi mi collego alla sua riflessione per passare la palla alla dottoressa Iannarelli e parlare di alimentazione per il nostro Sergio da Milano, taxista, che ci continua a scrivere. Sono molto contento e, come molti di noi, è desideroso di sapere: c'è una dieta che aiuta a prevenire il diabete? Abbiamo detto che i chili in più sono un fattore di rischio, quindi i chili in più ci dicono già che la nostra dieta non è adeguata. Ma, dottoressa Iannarelli, andiamo anche sulla qualità. Per quanto riguarda, innanzitutto volevo riallacciarmi alla telefonata precedente, l'ultima telefonata, in cui il signore suggeriva un approccio educazionale a livello alimentare fin dalla scuola, e mi sento di dargli perfettamente ragione, sì. Perché i bambini, è vero che ci sono le famiglie, però la scuola è un momento molto importante, e veramente sarebbe auspicabile una sorta di materia educazione alimentare anche a scuola. Comunque la collaborazione tra scuola e famiglia, ma andiamo in cucina, dottoressa Iannarelli. Andiamo in cucina. Per quanto riguarda che cos'è l'alimentazione che deve seguire un soggetto con diabete o un soggetto che facciamo vuole prevenire il pre e il diabetico, così diamo informazione, preveniamo ed educhiamo. Esatto, è la stessa cosa, perché la dieta è la stessa, non c'è la dieta per il diabetico, è la dieta normale, la dieta regolare, la dieta equilibrata, giusta, che ogni persona dovrebbe fare. E in che cosa consiste questa dieta equilibrata? Allora, se deve essere equilibrata, ci deve essere un equilibrio tra i vari elementi nutritivi, quindi tra proteine, grassi e carboidrati. I carboidrati devono rappresentare circa il 50% delle calorie totali. Tradotto in esempi semplici, in porzioni, in quantità? Semplici, se uno deve mangiare 2000 calorie, il 50%, cioè 1000 calorie, devono essere carboidrati. Visto che ogni grammo di carboidrati sviluppa 4 calorie, 1000 diviso 4 viene 250, deve ingerire 250 grammi di carboidrati. Da che cosa si prendono i carboidrati? Sì. I carboidrati sono gli zuccheri semplici, quindi il dolce, quindi zucchero, miele, dolci, sì. Bevande dolci gasate, e poi ci sono gli alimenti a base di amidi, quindi la pasta, il pane, le patate, i legumi che contengono anche carboidrati. Poco di tutto, troppo di niente. Dottoressa Iannarelli, dottor Genovese, confermate? Assolutamente sì, in modo semplice, bere il latte la mattina, un piatto di pasta a mezzogiorno, è meglio mangiare la pasta a mezzogiorno che ho tempo di smaltirla, e la sera magari invece mangiare il pane, perché se mangio la pasta a mezzogiorno in un soggetto diabetico sarebbe bene ridurre il pane. Sì, frutta e verdura. Assolutamente. In abbondanza, infatti il logo che sta sui manifesti della giornata del diabete di quest'anno porta ai due lati del bastoncino di legno proprio dei pezzi di verdura, proprio per stimolare le persone a prendere in considerazione l'importanza dei vegetali, che devono essere presi in quantità di 5 pezzi al giorno, quindi le famose 5 porzioni di frutta, esatto, e verdura. Due contorni, due verdure al giorno e tre frutti al giorno. Dottor Genovese, prima di chiudere questa nostra trasmissione, prima di andare a parlare di emozioni con Giovanni Allevi, ci sono delle interessanti novità sul fronte della terapia per tenere sotto controllo il diabete, ce le vuole anticipare? Visto che il numero di soggetti diabetici sta aumentando purtroppo in tutto il mondo, anche le aziende farmaceutiche si danno da fare per trovare nuove soluzioni. Sono usciti in Italia e stanno prendendo sempre più piede due nuove classi di farmaci, che sono dei farmaci che interferiscono, che diciamo stimolano un'adeguata secrezione di insulina. È interessante in particolare un gruppo che si chiamano gli incretinomimetici, che possono ridurre la glicemia, ma hanno anche un effetto sul peso. Il problema di questi farmaci è che sono iniettivi. Dottore, io la ringrazio per essere stato con noi, ringraziamo anche la dottoressa Iannarelli, un saluto all'Aquila, un abbraccio all'Aquila. Grazie. E ricordo 14 e 15 le giornate per il diabete, tantissimi appuntamenti, andate sul sito per la giornata del diabete.it e troverete tutte le piazze per fare dei controlli e per informarvi. L'informazione è già prevenzione. Ciao Rossella. 58588. Grazie dottoressa Iannarelli per essere stata con noi, buona giornata. E prima di salutarci è arrivato il momento della nostra degustazione musicale con un sommelier di tutta eccezione. Saluto Giovanni Allevi che è in linea con noi. Giovanni. Ciao, ciao a tutti. Giovanni, abbiamo parlato di gioia e oggi parliamo invece di tristezza. Anche la tristezza può essere utile come emozione perché ci permette un pochino di metabolizzare, fare delle riflessioni che in qualche modo poi ci portano alla luce. Sì, io in genere accompagno la tristezza all'ansia e la depressione, che sono i capisaldi della mia personalità, quindi mi ritrovo molto in quello che dici e posso anche suggerire musicalmente qualcosa. Infatti io direi di ripescare proprio un brano dal tuo ultimo CD Arena di Verona che ci aiuti in qualche modo a leggere questa tristezza, ma io vorrei una tristezza che ci porta alla gioia, capisci? Come un'emozione, se vuoi, di passaggio. Ma in generale la mia musica, per quanto sia triste, possiede sempre degli elementi di luminosità al suo interno. Penso che il brano più intenso che si avvicina a quanto stiamo dicendo, però con tutta la serietà, è il brano Foglie di Beslan, che è un brano per pianoforte e orchestra sinfonica. Cosa ha di particolare per essere associato alla tristezza? Beh, intanto è dedicato alla tragedia di Beslan, certo, a cui è ispirato, ed ha una grande carica emotiva dentro, è quasi un grido, ecco, un grido quasi di dolore che però si apre verso la speranza per il futuro. Grazie Giovanni, ti aspetto domani. Grazie a voi, ciao. E un saluto anche a voi che ci avete ascoltato e seguito. Io vi aspetto come sempre domani dopo il GR delle 11. Buonissima giornata da Nicoletta Carbone.